Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti a Mebius. Adesso ascoltiamo i titoli, ma poi io vi parlerò subito di Wall Street e fecondazione. Religiosità e generosità. Una ricerca tenta di stabilire se una fede religiosa ci rende più generosi nei comportamenti. Il Festival della Scienza a Genova si chiude con un messaggio rivolto alla ricerca scientifica italiana, suggerendo nuove interpretazioni e nuovi strumenti per sbloccare la situazione critica attuale. A Bordeaux si è discusso di cinema e scienza fra registi e tecnici. Si è parlato dei satelliti che trasmetteranno film, ma anche dell'ultima intervista di Arthur Clarke. Probabilmente ve lo siete chiesti più volte. Perché le palline da golf hanno la superficie piena di fossette? Un fisico russo ci spiega come mai. Una settimana alla scorsa di satelliti persi e poi ritrovati, anche con il contributo di abili astrofili. Ve lo ricordate Gordon Gekko, il micidiale giocatore di borse interpretato da Michael Douglas in quello spietato film che è Wall Street? Anche per chi non ha visto il film, un paio di sue battute saranno sufficienti. Ma che diavolo succede? Tengo d'occhio una vendita di 200.000 azioni, amico. Voglio sapere se c'entriamo. Meglio di sì, o scendo a mangiarmi la tua colazione. Senti, a 40 mi piacevano, ma a 50 sono un insulto. Sì, ma le I loro analisti non riconoscono un'azione privilegiata da una sottoporta. Aspetta che scendano e poi le facciamo diventare appetibili, ok? D'accordo. Ti richiamo. Se va bene come sulla carta, siamo in zona di pesca e tiriamo la rete. Ci vediamo a pranzo. A pranzo? Ma che scherzi, il pranzo è per chi non ha niente da fare. Ok, Billy, ci sentiamo. Pochi giorni fa il ministro Tremonti, durante un convegno, ha dichiarato che dobbiamo passare a un mondo in cui l'economia è basata sull'etica. Dopo quello che abbiamo visto negli ultimi due mesi, la proposta sembra del tutto condivisibile. Nel frattempo la gente si arrangia. Arriva dagli Stati Uniti un'indagine effettuata in alcuni ospedali sparsi in tutto il territorio e in centri specializzati. Riguarda le donazioni di ovuli. Il termine non inganni, non si tratta di donazioni, perché a farlo si guadagna un po'. L'indagine ci dice che negli ultimi mesi il numero di donne che si sono presentate nelle strutture sanitarie per rilasciare ovuli è in netto aumento. In un centro della Florida, per esempio, ci sono state 18 domande in agosto, 33 in settembre. In ottobre ci sono state medie di 36 domande ogni due giorni. L'incremento, ci dice l'inchiesta, è motivato dal bisogno di denaro. La procedura, sarà bene ricordarlo, non è affatto banale. Ci vogliono diverse settimane con assunzione di vari medicinali, esami e una prassi estrattiva che non è una delle cose più gradevoli che si possa fare. Però poi un po' di soldi possono arrivare se una donna riesce a far parte di quel 25% che in media è la percentuale dei soggetti che risultano adatti alla donazione. $3.000 è la cifra. In qualche stato americano si riesce a guadagnare anche di più, fino a $5.000. Poi però si entra in un archivio, ed è corretto, attenzione che ciò avvenga, nel quale si confronta la donatrice con i risultati che i suoi ovuli hanno prodotto. Insomma, una graduatoria sulla fecondità misurata dopo l'impianto. Non solo donazione di ovuli, sono in forte aumento anche le offerte per ospitare gravidanze su richiesta di altre donne che non sono in grado di esprimerle. Ma che gli ha presa Cromwell di fare un giro di conferenze? Perde 60 milioni a trimestre. Gesù Cristo, se vendesse bare non morirebbe più nessuno. Ok, allora gli finisce la pacchia. E gli affari sono affari. Continua a comprare, metti in minoranza il coglione. Holly, voglio che da ogni buco del suo corpaccio schizzi il sangue. State pronti ora che arriva il nostro quiz. L'astronauta americano Norman Taggart è uno degli uomini che ha maggiormente vissuto nello spazio, con diverse missioni sia con lo shuttle che sulla navicella russa Mir. In uno di questi viaggi, con permanenza in orbita per 115 giorni sulla Mir, lo stato fisico complessivo di Taggart fu monitorato e hanno scoperto che a un certo punto pesava meno, aveva perso chili in orbita. Bene, come si fa a pesare una persona che galleggia nello spazio? 1. Se appoggiamo il corpo su una bilancia che è a bordo della navicella, un certo peso viene pur sempre fuori, sarà decisamente più basso, poniamo che sia 12 kg, allora se ad un certo punto i chili diventano 11, questo basta per dire che una diminuzione di peso c'è stata. Ci scriverete bilancia. Nelle missioni spaziali, seconda risposta, non si va più da soli, ci sono sempre equipaggi di più persone. Per pesarsi questo è utile, si usa un sistema ingegnoso, due astronauti si mettono uno di fronte all'altro, si toccano con le mani, a questo punto si spingono poco, ma si spingono. Il risultato è che i loro due corpi si allontanano e raggiungono una certa distanza. Bene o male, la forza impiegata può essere sempre la stessa. Se uno degli astronauti ad un certo punto compie una distanza superiore, vuol dire che è diminuito di peso. Ci scriverete mani. Terza, ultima risposta possibile. Si usa una molla con una maniglia. L'astronauta tira verso di sé la molla e questo lo mette in oscillazione. Misurando il va e vieni della molla e i tempi di contrazione e rilassamento, insomma, viene fuori una misura del peso. Ci scriverete molla. Come sempre, al solito, SMS 349-238-6666. Il libro che si vince è Il tempo non suona mai due volte, di Etienne Klein, editore Raffaello Cortina. Di questo libro parleremo fra poco. In collaborazione con IBS.it. Questo che vi proponiamo ora è un bel tema che ci accompagna da millenni oltretutto. L'essere religiosi, avere una fede, rende noi uomini e donne persone più generose. Tantissimi hanno discusso su questo interrogativo, gente famosa e gente comune. In un'epoca la nostra, dove la scienza è molto sviluppata, si può affrontare l'argomento anche a partire da una ricerca. Ascoltate Barbara Galamotti. È vero che le persone religiose tendono a essere più generose e più collaborative rispetto alle persone non credenti? Se lo chiedono non solo gli uomini e le donne di fede, ma anche psicologi ed evoluzionisti, i quali cercano di spiegare dal punto di vista scientifico il successo delle religioni nel mondo. Al proposito esistono molti studi, permane però una certa confusione. Ora, due ricercatori del Dipartimento di Psicologia dell'Università della British Columbia, in Canada, hanno cercato di fare un po' di ordine fra i dati. Si chiama Ara Norezeyan e Amin Sharif e i loro risultati sono stati appena pubblicati su Science. In realtà l'analisi dei due ricercatori, che si concentra su 30 anni di ricerche su questo tema, ha mostrato una situazione più sfaccettata di quanto non si immaginasse. Partiamo dalla convinzione più comune. Le persone religiose sono anche quelle che tendono ad essere più generose, dicevamo. Lo dimostrerebbero diverse analisi, ma, fanno perfidamente notare i due studiosi, si tratta in genere di analisi basate sulle dichiarazioni degli stessi interessati. E poiché chi è praticante tende a dare una maggiore importanza alla dote della generosità, è possibile che i credenti intervistati tendano a presentare con maggiore enfasi le proprie buone azioni, anche in buona fede, senza nessuna intenzione di ingannare l'interlocutore. Il sospetto è avvallato da un esperimento classico chiamato del buon samaritano. Allora, si tratta di scegliere persone di diverse religioni e persone non credenti e di convocarle in un luogo. Sul tragitto verso l'appuntamento vengono fatte passare di fronte a un individuo molto male in arnese, apparentemente estremamente bisognoso di aiuto, di fatto un complice dei ricercatori travestito. Ebbene, a quanto pare non vi è nessuna relazione fra l'eventuale religiosità dei passanti e la loro propensione ad aiutare il derelitto. A fare la differenza è piuttosto il grado di fretta. Più ai partecipanti viene chiesto di correre all'appuntamento, meno saranno disposti a porgere aiuto, indipendentemente dal loro credo. Le cose però cambiano radicalmente quando la buona azione viene in qualche modo contestualizzata e presentata come parte della vita religiosa. In questo caso l'azione permette di dare un'immagine positiva di se stessi, cosa che costituisce un incentivo fortissimo ad essere più buoni. D'altra parte ciò non stupisce. Siamo una specie intrinsecamente ossessionata dal reciproco controllo sociale. C'è persino chi dice che proprio questo scopo sia nata la nostra irrefrenabile tendenza spettegolare. L'ininterrotto scambio di informazioni sugli altri individui ci dice di chi possiamo fidarci e di chi invece probabilmente è meglio stare alla larga. L'importanza del dare una buona immagine di se stessi, secondo i due ricercatori canadesi, spiegherebbe anche un altro fatto importante: il successo delle religioni nelle quali esiste un Dio etico e moralizzatore che controlla le azioni dell'essere umano. In questo caso la spinta a comportarsi bene non è più limitata dalla necessità di dare una buona immagine di sé agli altri membri del gruppo, ma si estende anche alla vita privata, perché siamo sempre sottoposti al vigile occhio divino. E potrebbe non essere un caso che le società più grandi, quella dove è necessaria una maggiore forma di collaborazione, siano proprio quelle dove si sono sviluppate questo tipo di religioni, le quali hanno anche un altro vantaggio. Generalmente, come dimostrano cristianesimo e islam, favoriscono la stabilità di società stratificate, dove esistono considerevoli differenze sociali. Questa delle differenze sociali è una caratteristica tipica dei grandi consorzi umani. La religione potrebbe essere stata dunque un tassello fondamentale per permetterci di sviluppare comunità umane enormi, molto più grandi delle tribù di 150 individui, il massimo a cui, secondo gli antropologi, potremmo aspirare. Le religioni offrono anche altri vantaggi ai loro fedeli. Ad esempio, è possibile che l'espansione dell'Islam in Africa abbia favorito il fiorire di commerci in larga scala all'interno della comunità musulmana, formata da individui fra i quali il comune credo rendeva più facile instaurarsi i rapporti di fiducia. E i rapporti di fiducia, alla fine, sono un po' l'anima del commercio. Un'analoga spinta potrebbe aver supportato i traffici medievali all'interno della comunità ebraica del Nord Africa. Qui però si pone un po' il problema dell'uovo e della gallina, perché non è chiaro se siano state le conversioni a favorire i commerci o la possibilità di entrare a far parte di una comunità fiorente a favorire le conversioni. E qui si affaccia anche il lato oscuro delle pratiche religiose, perché l'altruismo che esse favoriscono rischia spesso di essere rivolto solo o principalmente verso i nostri confratelli, promuovendo la creazione di blocchi in conflitto fra loro. Ma l'osservazione più interessante è forse quella che si trova in fondo allo studio dei due canadesi. Secondo loro, oggi il maggiore grado di cooperazione e altruismo forse si troverebbe proprio fra le società più secolarizzate, cioè Nord Europa e Nord America, perché ci sono voluti millenni, ma forse l'uomo sembra aver finalmente stabilito delle norme etiche che prescindono dal credo, ma che funzionano agendo sulle stesse leve emotive mosse dalle religioni. Alla fine, le religioni potrebbero perdere la loro necessità sociale per divenire puro fatto di fede e di esigenza spirituale. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ho qui in studio con me Maurizio Meris. Ciao Maurizio. Buonasera Federico, buonasera a tutti. Facciamo un primo bilancio rapido del Festival di Genova per quanto riguarda i numeri e gli afflussi, ma anche poi invece per parlare di un messaggio, di un monito che è arrivato dalla conclusione di questo festival. Per fare tutto ciò abbiamo ospite Manuela Rata. Buonasera Manuela Rata. Buonasera a tutti. Presidente del Festival, no? Di Genova. Sì, il festival si è chiuso ieri. Siamo molto soddisfatti perché nonostante la crisi, nonostante i problemi delle scuole, nonostante il tempo orrendo che c'è stato, abbiamo mantenuto le 250.000 visite delle due edizioni precedenti, con un picco addirittura di 30.000 persone il sabato, l'unico sabato in cui c'è stato il sole, quindi siamo molto contenti, abbiamo già fissato la data dell'anno prossimo e la parola chiave che sarà futuro. Che sarà futuro? Noi per qualche ora abbiamo un po' temuto chissà che cosa quando avevamo visto quel traghetto inclinato nel porto e quelle onde gigantesche, sapendo che molto del festival è vicino, però è andato tutto bene, no? Sì, la gente è riuscita a arrivare al festival nonostante il vento incolume e la pioggia. Senta, parlavamo di futuro, mi sembra che voi state cercando di lanciare un messaggio proprio sul futuro però della ricerca. E mi pare che i punti che dobbiamo tirare fuori, anche per dare una lettura un po' diversa dal solito, sono anzitutto sfatiamo questa convinzione diffusa ma un po' erronea che il ricercatore è solo un costo, il bravo ricercatore, intanto diciamo una cosa, i soldi li prende da tutte le parti. Sì, assolutamente, cioè questa visione del ricercatore come costo per la pubblica amministrazione è falsa tutto, perché in realtà un ricercatore costa 60-70 mila euro l'anno, ma ne porta a casa molti di più, prende progetti europei, nazionali, contratti dalle industrie, e queste risorse che vengono acquisite poi rientrano nel circolo della produzione, certo. Quindi si comprano apparecchiature, si pagano borse di studio, assegni di ricerca, cioè c'è anche un impatto economico dell'attività di ricerca scientifica. Si può quasi dire che è più una leva che un costo questo della ricerca. Assolutamente, ecco. Un bravo ricercatore porta almeno 4 volte tanto quello che costa. È un buon manager, insomma. Decisamente. Ecco, di cosa però c'è bisogno? Perché comunque un minimo condizioni iniziali per partire, per essere attrattivi nei confronti dei finanziatori ci vorrà. Ma certamente, cioè, ci deve essere uno zoccolo duro, un finanziamento di base che è quello che fa da volano, senza il quale non si riesce a sopravvivere, ad essere competitivi a livello internazionale. I nostri colleghi stranieri si chiedono spesso come fanno gli italiani a pubblicare tanto, a lavorare tanto, nonostante questa mancanza di risorse fisiologiche. Ecco, a questo proposito c'è un altro paradigma che va sfatato, quello dell'investimento pubblico, come dire, basso in Italia. Effettivamente non brilliamo come investimento statale, però il grande assente è il privato. Voi che cosa proponete? Qui mi pare che ci sia il punto centrale anche del messaggio che volete lanciare. Sì, devo dire che l'investimento pubblico è decisamente insufficiente, è calato insieme anni in maniera drammatica, però è vero che il grande gap è nell'investimento privato. E considerata la frammentazione dell'impresa italiana, la sua dispersione e la scarsa propensione a fare innovazione, quello che ci rende molto diversi rispetto per esempio al sistema statunitense è la mancanza totale di donazioni. Quindi di investimenti di lungo periodo non particolarmente finalizzati. Certo. E allora quello che abbiamo lanciato dal festival, anche cogliendo il messaggio di Elena Cattaneo che diceva noi soldi li prendiamo dall'Europa e dalle fondazioni americane. Infatti. Ecco, quello che noi abbiamo lanciato è investite nella ricerca. Noi siamo il paese che ha costruito il più grande patrimonio culturale del mondo grazie al mecenatismo. Io sogno un rinascimento con donazioni da parte di privati, perché i privati non aprono dei posti di ricercatore? Borse di studio? Sì, all'estero ci sono le cattedre, i posti di ricercatori che sono targati con il cognome di chi ha fatto la donazione. È vero che non ci sono degli incentivi fiscali confrontabili con quelli per esempio statunitensi, ma io sono convinta che se il fenomeno parte, allora poi anche la legislazione si potrebbe adeguare, diciamo. Certamente, certamente. Bene, speriamo che questo messaggio, come tanti altri, possa andare in porto, ne abbiamo bisogno. Grazie Emanuela Arata. Grazie. Grazie a voi. Arrivederci, buonasera. Buonasera. Con Emanuela Arata parlavamo di futuro, che è un ingrediente fondamentale, Maurizio, per il tempo. E tu a Genova hai incontrato un grande esperto di tempo. Un grande esperto, Etienne Klein, fisico e divulgatore francese, ma noto in tutto il mondo per i suoi libri, per esempio Sette volte la rivoluzione. Ma questa volta lui si occupa di tempo, torna sul tempo dopo le strategie di Crono scritto alcuni anni fa, perché il tempo rimane, nonostante è stato macinato dai migliori cervelli del mondo nei secoli, un grande mistero. Allora abbiamo cercato di chiedere a Klein di spiegarci almeno quali sono i termini del problema, magari non tanto le soluzioni, che sono troppo difficili. Il titolo del libro è Il tempo non suona mai due volte. Sì, come dire che insomma quando è andato non torna più. Buonanotte. È un po' banale come affermazione, eppure parte proprio da qui. Estremamente profonda. Cosa gli hai chiesto come prima cosa? Io gli ho chiesto che ore erano. Ho ottenuto una risposta più strutturata del solito, mettiamola così. Sentiamo. Là il 20h30, ma l'ora c'est pas le temps. Le 20h30, ma l'ora non è il tempo. Mentre quando parliamo del tempo, utilizziamo la stessa parola per intendere cose molto diverse. Dunque il linguaggio a proposito del tempo è fonte di confusione. Tuttavia, grazie alla fisica, possiamo fare una sorta di critica del linguaggio, non certo per cambiare il linguaggio quotidiano o le espressioni con cui comunemente parliamo di tempo, ovviamente, ma perché questa critica al linguaggio ci permette di capire meglio che cosa è il tempo. Saisir la realtà propria del tempo. Quindi cos'è il tempo? Esiste o non esiste? È solo un concetto o invece un'entità reale? Qualcosa che in un certo senso possiamo toccare? Allora, on peut pas le toucher. Il y a des gens qui disent qu'il n'existe. Non lo possiamo toccare, certamente no. Ma c'è chi sostiene che proprio non esista, che sia cioè un concetto astratto, privo di una realtà propria. Per cominciare, proviamo a ragionare sul presente. Non appena appare il presente, subito scompare nel passato. È qualcosa che cessa di essere nel preciso istante in cui comincia ad esistere. Dunque dire che il presente esiste è quantomeno problematico. Contemporaneamente però il presente, per definizione, esiste sempre. Infatti c'è sempre un presente, l'istante che stiamo vivendo. Ecco insomma che salta fuori subito una contraddizione tra questo presente che esiste sempre e il presente come qualcosa di costantemente evanescente. E questo è il punto. Non appena cerchiamo di trattare la questione del tempo, per esempio, andando ad analizzare meglio cosa significano le espressioni che utilizziamo comunemente nel linguaggio, ecco che otteniamo subito contraddizioni e paradossi. Dunque la questione è se il tempo sia qualcosa che obbligatoriamente suscita il paradosso, o se invece possiamo arrivare a superare questo paradosso e a costruire una filosofia del tempo che sia coerente. Filosofia del tempo che sia coerente. E infatti in fisica la questione del tempo, chiamiamola così, è molto forte. Lei fa spesso un esempio, quello delle palle da biliardo, mi permetta di riassumere. Lei dice, prendiamo un filmato, per esempio, in cui una palla da biliardo ne colpisce un'altra. Tutti sappiamo che la seconda rimbalza via secondo l'angolo di incidenza, è la legge degli urti. Se proiettassimo questo filmato al contrario, probabilmente non ci troveremmo nulla di strano e forse non sapremmo nemmeno scegliere se il filmato è fatto bene, non si vede il giocatore che colpisce la pallina con la stecca, non sapremmo nemmeno scegliere quale dei due è il filmato originale. Ma pensiamo invece a quando, a inizio partita, si spara una palla su quel triangolo ordinato di palline che sta dall'altro lato del tavolo, si dice che si spacca. Ecco, se noi proiettassimo al contrario questo filmato, se ne accorgerebbero tutti. Capirebbero tutti che il filmato in cui le palline arrivano da tutte le direzioni e si dispongono a triangolo è il filmato proiettato al contrario. Insomma, abbiamo delle leggi fisiche, quelle degli urti nel nostro esempio, che in un caso descrivono un comportamento reale, nell'altro caso, quello con il tempo che scorre alla rovescia, qualcosa che invece non si è mai visto, che è impossibile, insomma. È un'altra contraddizione. Le leggi fisiche lasciano intendere che i fenomeni... Certamente. Le leggi fisiche lasciano intendere che i fenomeni siano reversibili, perché le equazioni della fisica lo richiedono. Ma nella vita di tutti i giorni vediamo fenomeni irreversibili. Dunque c'è una contraddizione tra la realtà empirica, l'esperienza, e le equazioni con le quali si pretende di descrivere questa realtà empirica. È un dato molto interessante che proprio il Nobel di quest'anno sia stato dato a tre fisici che hanno elaborato un concetto molto complicato, detto rottura spontanea della simmetria, che è proprio un tentativo di spiegare come le leggi fortemente simmetriche possano pilotare un mondo che invece non è simmetrico. Dunque siamo di fronte a una questione generale della fisica. Dobbiamo comprendere se le nostre equazioni ideali sono veramente delle astrazioni o se sono connesse al reale da dei percorsi che siamo in grado di ricostruire. Il rapporto causa-effetto. Mi pare, insomma, che lei in conclusione sostenga che per capire il tempo dovremmo passare di lì. Sì, il principio di causalità è un principio che i fisici, da Newton in avanti, utilizzano sistematicamente nella teoria e con un'efficace, soprattutto un impatto sulle osservazioni sperimentali che è decisivo. Ma la causalità non è solo un principio strutturante delle teorie fisiche consolidate. Oggi, mentre cerchiamo di andare oltre queste teorie e di costruirne di più generali, come la teoria delle stringhe, il principio di causalità è là e occupa un posto fondamentale. Infatti potrebbe anche essere più importante del tempo stesso, ovvero potrebbe essere che il tempo non sia altro che il modo di manifestarsi, una emanazione della causalità. Lucy dunque camminava, era alta poco più di un metro e camminava. Lucy non era una ragazzina che con un'altezza di un metro sarebbe normale camminasse. Lucy è il nome che è stato dato dalla paleontologia contemporanea a quell'australopiteco femmina, una scimmia, che 3,8 milioni di anni fa si faceva sostenere da uno scheletro i cui resti furono trovati in una pianura dell'Etiopia. Stiamo parlando dei nostri antenati. Dall'analisi di questo scheletro si è capito che Lucy e i suoi colleghi e colleghe camminavano su due piedi, ma erano i primi. Dunque, finora non si era trovato nulla di più antico. Due settimane fa, invece, Benz Viola, ricercatore dell'Università di Vienna, si è presentato al 68esimo convegno internazionale di paleontologia in corso a Cleveland con un femore. Le analisi ci dicono che risale a 4 milioni di anni fa, il che significa prima di Lucy. Ebbene, la testa dell'osso, quella che anche noi oggi definiamo la testa del femore, si presenta con quell'ampiezza, quella dimensione che è tipica dei bipedi, e cioè di chi cammina. Eravamo bipedi già prima di Lucy. Quindi, stare su due zampe per un essere vivente è cosa complessa. Che si abbiano grandi vantaggi nel muoversi su quattro di zampe è del tutto evidente se pensiamo a prestazioni di varia natura. Pensate all'agilità di un gatto, alla capacità di corsa di un cavallo. Starsene su due zampe ha un solo grande vantaggio: ci sono due mani libere per fare altro. se si tratta di spucciare il dorso di un'amica, le nostre colleghe scimmie questo lo fanno bene, e nei laboratori sperimentali hanno anche imparato a fare altre cose più sofisticate. Noi facciamo qualcosa di più. Tuttavia, restiamo alla posizione eretta. Da qualche decennio si fa ricerca sui robot con una movimentazione bipede e qui si è capito bene che cosa significhi. L'equilibrio necessario a muoversi su due piedi è basato su una continua e meticolosa capacità del nostro corpo nel mantenere la posizione. In ogni momento, insomma, potremmo cadere e sono migliaia di correzioni che il nostro cervello in pochi istanti e continuativamente invia a tutto il corpo per evitare che si finisca per terra. Basta bene un goccio di più e, come sappiamo, le cose si fanno già più difficili. Negli ultimi tempi si sono visti i primi robot che, stando su due piedi, resistono anche a qualche spintone, ma siamo lontani dallo stare in piedi durante una partita di basket. Ecco perché, tornando all'antenato di Lucy, piccole differenze nella forma di un osso fanno una profonda differenza. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Matteo Merzagora ogni tanto collabora con la nostra trasmissione, vive e lavora a Parigi, dove opera come esperto di relazioni fra media e scienza. E Matteo Merzagora ci racconta di un convegno su cinema e scienza che si è concluso pochi giorni fa a Bordeaux. Bref, la science est vraiment en prise directe avec l'art et les artistes regardent la science. La scienza è in presa diretta con l'arte e gli artisti guardano alla scienza. La voce è quella di Jean-Jacques Beigny, regista culto del cinema francese degli anni Ottanta, autore di pellicole note anche in Italia come Diva o Betty Blue. Lo abbiamo incontrato a Bordeaux, a un festival del cinema un po' particolare. Si chiama Cinema Science, Cinema Scienza, ed è interamente dedicato a film, film di fiction, non documentario talk show, film che trattano temi scientifici. A convincere Jean-Jacques Beigny a fare da padrino a questo festival, organizzato dal CNR francese, il CNRS, è la passione che dice di aver trovato negli scienziati e che lo ha contagiato durante le riprese di un film istituzionale. La découverte principale, la plus étonnante et la plus inattendue, c'était qu'il y avait plus de passion encore chez les scientifiques que chez les cinéastes. Beigny dice di aver trovato anche una grande generosità, una grande disponibilità e una grande follia, nel senso migliore del termine. E la scienza fa venire voglia di fare film. Secondo Beigny, in ogni campo di ricerca c'è un film che chiede di essere girato. Et comme je suis très curieux, je me suis rendu compte qu'il y avait pratiquement un film par sujet de recherche. Tanti film che il festival Cinema Science ha cercato di scovare. 12 lungometraggi inediti in concorso, molte anteprime, 21 film di una retrospettiva dedicata ai rapporti tra cinema e scienza, sezione per cinefili, nouveau regard, insomma tutto come a Cannes o a Venezia, passerelle e fotografi a parte. E il tutto nell'idea che il cinema possa e debba diventare un vettore di cultura scientifica. Il pubblico ha premiato il film di Pierre Jolivet, La Très Très Grande Entreprise, su un gruppo di giovani alla Ken Loach che cercano di inchiodare una grande multinazionale alle proprie responsabilità ambientali. La giuria ha scelto l'inglese Poppy Shakespeare, ambientato in un ospedale psichiatrico. Personalmente ho preferito l'intenso The Black Balloon australiano sull'autismo o Lo Mejor de Mi, una storia molto intima sul dare e sul ricevere in amore, come nel caso di un trapianto d'organo. O ancora lo scanzonato Chile Puede, sul programma spaziale cileno che ha trovato i soldi per mandare in orbita un astronauta, ma non abbastanza per farlo tornare indietro. Es el sueño de paese che sempre ha sido ultimo in tutte le competenze mondiali. Il film, spiega il regista Boris Quercia, è il sogno di un paese che è sempre stato ultimo in tutto, ma come in ogni sogno c'è una vittima che è sempre il cittadino comune. Ogni anno un paese sarà l'invitato speciale al festival. Per questa prima edizione è toccato proprio all'Italia, quindi delegazione di scienziati e cineasti italiani in visita a Bordeaux, proiezioni di classici come I ragazzi di via Panisperna o Morte di un matematico napoletano e collegamento via satellite con Roma per una chiacchierata con i nostri Luciano Maiani e Roberto Petronzio del CNR e dell'Istituto di Fisica Nucleare. E il satellite non è casuale, e non casuale la presenza di Paolo Dallachiara, presidente di SatExpo, e di Giuliano Berretta, presidente e direttore generale di Eutelsat, azienda leader in Europa per i satelliti, per le telecomunicazioni. È proprio Berretta a sottolineare il ruolo fondamentale del satellite per mettere in comunicazione cinema e scienza. Ah, certamente che è un ruolo fondamentale, perché tra le 3.000 canali di televisione che trasmettiamo, ben 200, più di 220 canali sono dedicati al cinema, più di 150 sono dedicati al documentario, e nel documentario naturalmente sono molti documentari di tipo scientifico, quindi la scienza e il cinema sono due settori che interessano molto Eutelsat nella sua qualità di diffusore. Allora, lei metteva l'innovazione come elemento forte della vostra partecipazione a questo festival, di novità che passeranno dal satellite, ne abbiamo parecchie all'orizzonte. Può darci qualche idea di quello che sono le vostre attività? Sono due fattori importanti. Uno è l'arrivo dell'alta definizione, i quali permettono di avere un cinema di qualità, in effetti. E poi, per quanto riguarda l'innovazione in se stessa, Eutelsat sarà il primo, lo è già, ma lo sarà ancora di più, con un nuovo satellite che arriva, il primo... No, un momento, il nuovo satellite che arriva... Ve lo spiego tra un attimo. Eutelsat lancia un sistema a prezzo comparabile alla DSL, grazie all'innovazione tecnologica, naturalmente, per portare a tutti i cittadini europei l'internet a alta velocità, dovunque essi siano, anche sulla cima del Monte Bianco. Tra l'altro lanceremo un nuovo satellite per aumentare la capacità di questo servizio nel 2010, che sarà il più grande satellite al mondo dedicato totalmente all'internet. Saremo in orbita un anno prima degli americani. Oltre alla diffusione di contenuto digitale a persone isolate, diciamo, c'è invece anche la distribuzione cinematografica come prospettiva o anche forse attualità dell'uso del satellite. Sì, è più che altro un'attualità, perché sono per il momento delle, come si dice, delle niche market, delle marche di nicchia, del trasporto del cinema. Però i satellite, naturalmente, specialmente con la super high definition, ci permette di avere un cinema a qualità completamente cinematografica. Noi già qui in Francia trasmettiamo, attraverso una società esterna di Eutelsat, vengono trasmesse le opere dal Metropolitan di New York su tutta la Francia in sale cinematografiche. In Italia ci sono i cinema della Warner che sono stati equipaggiati, mi pare che siano 40 sale cinematografiche. Telecinema permette di poter fare il cinema in real time, nel senso che voi potete avere anche un avvenimento che può succedere, non so, al teatro di Taormina, e trasmetterlo in una serie di cinema in tutta quanta Italia. I film italiani in concorso erano Signorina F di Vilma Labate e Madre e Ossa di Alessandro Capone, ma è stato presentato anche un bellissimo piccolo film su Arthur C. Clarke, l'autore di 2001 Odissea nello spazio, morto nel marzo di quest'anno. E ce lo descrive in due parole lo sceneggiatore, Marco Pettenello. È la storia di un documentarista italiano, Stefano Rebecchi, che è poi il regista del documentario, che va nello Sri Lanka per intervistare Arthur C. Clarke, che è un, per chi non lo sa, è un totem della fantascienza. Ha scritto il libro e la sceneggiatura di 2001 Odissea nello spazio, oltre a moltissimi romanzi di fantascienza. E il documentario racconta il viaggio di questo documentarista che cerca di intervistarlo, va lì per intervistarlo, perché Clarke vive lì da 50 anni nello Sri Lanka. E purtroppo Clarke si sente male proprio in quei giorni, e Stefano, trovandosi lì, comincia a girare l'isola riflettendo sulla persona di Clarke, sui suoi romanzi, sulla sua vita, cercando i posti più significativi per il suo lavoro e per la sua vita, e raccontando la storia di Arthur C. Clarke in sua assenza, diciamo, perché lui non poteva concedere questa intervista. Invece alla fine Clarke si sente meglio e concede l'intervista e racconta alcune cose, alcuni suoi pareri sul mondo, sul suo lavoro, che poi saranno gli ultimi espressi mediaticamente, perché pochi giorni dopo Clarke purtroppo è morto. Un'ultima intervista ad Arthur C. Clarke, lo vediamo a letto, lo vediamo con difficoltà di parlare, ma anche estremamente lucido. È il momento del film in cui finalmente, dopo questa peregrinazione nei luoghi di Clarke, lo riusciamo a trovare. È un momento emozionante, immagino che lo sia stato anche per voi. Sì, lo è stato, e beh, in fondo sono le sue ultime parole, la sua ultima intervista è una sorta di piccolo canto del cigno. Noi abbiamo avuto la fortuna, senza meritarla, di essere lì a registrarlo, e intorno a questo abbiamo costruito una storia e un film. Ma sentiamo ancora il presidente di Eutelsat, Berretta, che è un vero fan di Clarke, perché oltre a soddisfare le sue passioni di lettore, possiamo dire che Clarke gli ha dato un lavoro. Io sono stato un lettore di romanzi di fantascienza nella mia adolescenza, in particolare quelli di Arthur Clarke. Ho scoperto poi nella mia vita professionale che Arthur Clarke era anche stato uno scienziato, in quanto aveva per primo capito l'utilizzazione dell'orbita geostazionaria, questa orbita particolare che permette di avere un satellite che ruota alla stessa velocità angolare della Terra. E quindi rimane di fatto sempre nella stessa posizione e noi che siamo qui lo vediamo sempre, indipendentemente dall'ora del giorno, dal mese dell'anno? Assolutamente, è quella famosa parola che si dice geostazionario. Misteriosa parola, vuol dire che sta fermo nel cielo, è stazionario rispetto alla Terra. È come se lui danzasse con la Terra, si guardano due danzatori negli occhi, si muovono tutti e due, però in effetti uno rispetto all'altro sono fermi. E questa è stata un'idea di Arthur C. Clarke. Esattamente, nel 1945 ha scritto un famoso articolo che dimostrava questo, pubblicato. Questo articolo gli ha permesso di essere definito il padre dell'orbita geostazionaria, che si è chiamata la Clark Belt. E ci sembra che il personaggio di Clark riassuma perfettamente il senso di questo festival di Bordeaux Cinema Science, il senso di un matrimonio tra cinema e scienza che è fatto insieme di cultura e di tecnologia. Eccoci allora la soluzione del quiz. Se galleggiate all'interno di una stazione spaziale non c'è storia, non si pesa mai un po' meno, non si pesa e basta, quindi niente appoggiamenti su bilance. Se poi due astronauti si spingono anche pochino, l'astronave dovrebbe avere un corridoio di 300 metri prima che forse l'attrito con l'aria li fermi. La molla con la maniglia invece funziona, nello spazio si galleggia ma non è che la massa del corpo se ne va via, non c'è la forza peso ma non la massa, sollecitata dalla massa la molla si contrae e si espande in modo direttamente proporzionale alla massa stessa. Questa è la soluzione. Il mondo della ricerca scientifica americana durante tutto il lungo anno preelettorale, quindi fin dalle primarie, si è espresso unanimemente su un tema di fondo ritenuto essenziale e che è stato più volte riassunto nella seguente affermazione: per favore dateci un presidente che capisca qualcosa di scienza. Sostanzialmente quindi una posizione di netta critica all'amministrazione di George Bush, ritenuto forse il più incapace nella storia dei presidenti americani nel comprendere le tematiche scientifiche. I giudizi pesantemente negativi su Bush partono dalla sua clamorosa sottovalutazione dei problemi ambientali, ma non solo. Quello che ha maggiormente colpito l'opinione degli scienziati è l'uso che l'ex presidente ha fatto dei risultati della ricerca scientifica, spesso travisandoli ad arte in modo da farli corrispondere a propri interessi politici, una direzione nella quale non si è esitato anche ad utilizzare dichiarazioni evidentemente, qui guardate le associazioni degli scienziati americani, non usano mezzi termini, dichiarazioni evidentemente comprate, mettiamolo pure fra virgolette, ma l'opinione è questa, dichiarazioni formulate da pochi oscuri scienziati di secondo piano. Ma poi la campagna elettorale è iniziata e i due candidati, McCain e Obama, sono stati monitorati da vicino dal mondo della ricerca. In generale si è subito segnalato un salto di qualità rispetto a Bush, i due candidati hanno generalmente espresso una sensibilità maggiore rispetto alla scienza ed anche su temi caldi dell'emergenza ambientale. Però poi è stato anche messo in luce un aspetto importante della questione, e cioè il presidente deve avere un atteggiamento adeguato sulle questioni scientifiche, ovviamente, e quindi ciò significa possedere uno status culturale di un certo livello. Ma poi la partita vera si gioca sullo staff del presidente, più in generale sulle modalità di consultazione di esperti. È qui che lui deve avere l'intelligenza di creare una rete valida di consulenza scientifica. Bush praticamente ha ignorato questo aspetto e in realtà questo appare come un vero paradosso in un paese che ha la ricerca scientifica più vasta e finanziata fra tutti i paesi al mondo. Torniamo a Obama e McCain. Ha vinto Obama, si può dire che l'ambiente scientifico americano è ampiamente soddisfatto, temevano un altro repubblicano, ma poi hanno anche verificato che Obama ha usato molti autorevoli esperti di scienza nella sua campagna. McCain non l'ha fatto. Poi c'è stato anche un paradossale discorso di Sarah Palin, nel quale la possibile vicepresidente ha detto che finanziare le ricerche sui moscerini della frutta è un classico esempio di spreco di risorse pubbliche. Qui sarebbe troppo lungo entrare nel dettaglio, però sinteticamente possiamo dire che negli ultimi 80 anni la biologia si è sviluppata lavorando su questo insetto. In breve è come se lei avesse detto: basta finanziare l'acquisto di topolini per la ricerca farmacologica, sono soldi buttati via. Poi c'è stata la solita dichiarazione sullo stile: sono stata fraintesa. Il Massachusetts Institute of Technology, il MIT, cioè l'Università dell'Arizona, hanno poi invitato qualche mese fa i due contendenti a misurarsi pubblicamente sui temi che riguardano la ricerca e la scienza, ponendo loro 14 domande cruciali. Tutte e due hanno declinato l'offerta, però Obama ha fatto pervenire le sue risposte, McCain si è defilato. In conclusione, gli scienziati americani sono in gran maggioranza contenti di Obama, ma in generale ritengono che uno standard adeguato non sia ancora garantito nelle stanze della Casa Bianca. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Buonasera Chiara Albicocco. Buonasera Federico, buonasera a tutti. Benvenuta qui, parliamo ancora di Genova e del suo festival. Tu però ci parli di palline da golf con un fisico russo, è una roba seria. Sì, esatto. Allora, lui è Andrei Varlamov ed è già stato nostro ospite l'anno scorso, ci aveva spiegato tutto sulla fisica del caffè e anche degli spaghetti. Quest'anno invece si è dedicato allo sport e ha spiegato quella che è la dinamica di una pallina da golf, ma poi durante l'intervista capiremo che vale un po' per tutte le palle di tutti gli sport. Tennis, anche pallone. Ovviamente la prima cosa che gli ho chiesto è come quest'anno gli è venuto in mente di parlarci di questo. Io ho raccontato in inizio della mia lezione che avevo difficoltà di che cosa raccontare, perché mi dispiace raccontare due volte le stesse cose, ma ogni volta è un tema deve maturarsi. Allora io disperatamente cercavo di che cosa parlare questo anno e, essendo Trinity College come l'ospite di college, io ho trovato in biblioteca questo vecchio articolo di J.J. Thompson e ho deciso che potrebbe servire come le basi per presentazione che può essere interessante anche per gli italiani moderni. E così lo è stato. Infatti, che leggi fisiche ci sono dietro a quella che è la dinamica della pallina da golf, che però ci ha spiegato che vale anche per le altre palline, cioè per le palle degli altri sport? Sì, sì. Allora, leggi di dinamica e aerodinamica. Allora, naturalmente, il movimento in campo gravitazionale, come studiamo in scuola media, in fisica, diciamo, scolastica, più una cosa più sofisticata come aerodinamica, allora l'interazione tra una pallina che gira, rotante, con l'atmosfera, che risulta in formazione di una forza specifica, forza di Magnus, che fa il movimento della pallina non bidimensionale ma tridimensionale, non solo in piano verticale ma anche in tridimensionalità, e può fortemente cambiare la traiettoria delle palline di golf. Questo significa che se la pallina gira su se stessa può essere deviata in maniera diversa. Esatto, perché in interazione tra racchetta e le palle di tennis o la mazza e la pallina di golf, possibile, volendo o non volendo, dare una rotazione iniziale che risulta in deviazione della pallina, della sua traiettoria, diciamo, banale, senza rendere conto per rotazione. Ecco, abbiamo capito che un ruolo fondamentale lo gioca anche la forma della pallina, il fatto che non sia liscia, il fatto che abbia delle fossette. Allora, io direi non forma ma superficie. Sì, l'effetto è quasi doppio. Allora, se pallina di golf fosse stata liscia, gli effetti di rotazione sarebbero stati pronunciati due volte di meno. È per questo che le palline di tutti gli sport non sono perfettamente sferiche e hanno una superficie completamente liscia, a parte mi è venuto in mente il ping pong. Non lo so, perché è chiaro che tutto questo è pensato molte volte. È chiaro che noi, che in gioco dare per il giocatore più grandezza di libertà, allora possibilità di influenzare sulle traiettorie, sulle forze, eccetera, eccetera, è una ricchezza aggiunta. Allora, chiaro che se è possibile dare, perché non dare? E poi un'ultima cosa, abbiamo scoperto che c'è differenza giocare a golf al mare e a golf in montagna. Questo è vero, questo mi ha fatto grande piacere sentire questa domanda, significa che i miei ascoltatori erano interessati e sempre mi fa piacere non solo insegnare ma anche imparare. Questo secondo me è una delle bellezze di Festival della Scienza, che i tutori diventano anche più studenti, diciamo, che è una cosa che arricchisce Entrambe, sì. E quindi ci spieghi soltanto in due parole che differenza c'è? L'altitudine? L'altitudine, è chiaro che più alto siamo, meno densa aria. Meno densa aria, meno attrito. Attrito fa effetto doppio. Primo di tutto riduce la velocità delle palline e secondo anche velocità di rotazione, ma l'effetto su rotazione è secondario. Allora, primo di tutto, alto, diciamo in montagna, giocando golf, possibile lanciare la pallina più lontano, diciamo. Raggiungo Paola Rebusco negli Stati Uniti. Ciao Paola. Ciao Federico, buonasera a tutti. Ci sentiamo via Skype per parlare di satelliti persi. 15 giorni fa è successo un fatto un po' singolare. Si sono persi due satelliti per un po'. Intanto quali sono questi due satelliti? Dunque, sono due satelliti X. Il primo è europeo, si chiama XMM Newton, e il secondo è Chandra, che invece è un satellite americano della NASA. Due satelliti X vuol dire? Vuol dire che sono dei satelliti che osservano i buchi neri, gli agglomerati di galassie, le stelle di neutroni, tutti oggetti che emettono nella banda X ad alte energie. E quindi non... satelliti per ricerca, molto importanti, tra l'altro Chandra è veramente famoso. Anche Newton, direi. Anche Newton, va bene. Senti, allora, è cosa... il più grande satellite X europeo. È il più grande, ecco, adesso che hai detto grande mi pare che hai anche un peso da darci. Sì, pesa 4 tonnellate. Ma accidenti, quindi veramente grosso, immagino che perderlo crei anche una certa ansia, perché un oggetto così forse costa tanto. Sì, solo per la costruzione i primi 2 anni di funzionamento è costato 689 milioni di euro. Mica poco. Esatto. Mica poco. Allora, dai, forza, cos'è successo? Quando è cominciato? Allora, il 18 sera, il 18 ottobre, XMM Newton si trovava al perigeo, che è il punto della sua orbita più vicino a Terra. Sì. Comunicava normalmente con la stazione radio a Santiago del Cile. A questo punto di solito c'è un interruttore che cambia la frequenza radio e il contatto passa da un'antenna, appunto questa in Cile, a un'antenna situata a Villafranca in Spagna. Praticamente c'è una perdita di contatto, ma breve. Il 18 sera invece il satellite si è sconnesso dalla base a Santiago del Cile e poi non ha ristabilito nessun contatto radio. Scomparso, panico. Per cui l'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA, che ha costruito, che gestisce questo satellite, ha svolto le procedure nel tentativo di recuperare il contatto, ma senza nessun successo, per cui ha dovuto allertare agenzie spaziali e astronomi in tutto il mondo. Una rete, quindi. Una rete, perché si temeva il peggio. Sì. Si temeva, ad esempio, la collisione con un detrito spaziale a questo punto. Con uno dei detriti che stanno in orbita, uno di quelli. Sì, sì, esatto. E se il satellite era frammentato, a questo punto perso la missione tutto. Era persa. Invece? Esatto. Invece, per fortuna, il 21 sera, cioè 3 giorni dopo, degli astrofili tedeschi, sì, dall'osservatorio di Starkenburg, hanno visto che il satellite non era a pezzi. E anche altri telescopi in tutto il mondo hanno confermato la notizia, perché intanto continuava comunque a muoversi. L'hanno visto nel senso letterale del termine, cioè l'hanno individuato in cielo. L'hanno individuato, esatto, l'hanno individuato e hanno visto che era ancora tutto d'un pezzo. E finalmente poi il 22 mattina, è proprio una saga, il 22 mattina sono riusciti a stabilire un contatto radio con il satellite, ma molto debole. Per fare questo hanno usato un'antenna di 35 metri di diametro che si trova a New Norcia in Australia. Ora, il salvataggio finale invece è avvenuto grazie a una stazione della NASA a Goldstone in California. Era in una posizione favorevole, era la stazione radio più vicina al satellite in quel momento e finalmente l'ha riportato sulla retta via. Ok, quindi questo l'hanno riagganciato. È stata una missione veramente di salvataggio internazionale, dalla Germania, l'Australia, gli Stati Uniti, la Spagna, il Cile. Senti, l'altro invece cosa gli era successo, Chandra? Beh, l'altro, la cosa misteriosa è che la stessa sera, alle 22.30 in Europa, ha avuto un'anomalia, per cui la parte che gestisce la comunicazione tra il computer a bordo e altre parti del veicolo spaziale ha smesso di funzionare, per cui il telescopio si è messo a guardare il sole invece di puntare agli oggetti che doveva osservare. Però allora mi sembra di capire che non è che è stato perso il contatto, nel senso che non sapevano più dov'era, ma non riuscivano più a entrare in contatto dal punto di vista del farlo funzionare. Esatto, sì, hanno perso il controllo più che il contatto. Più nel caso il controllo in questo caso. Okay. In questo caso cos'era successo, lo si sa? Non si sa bene che cosa sia successo. In realtà alla NASA sanno molto di più, ma non è di dominio pubblico, non ce lo vogliono dire. Vabbè, restiamo nel mistero, non riesco nemmeno a capire perché debba essere così misteriosa, cioè... In realtà, ad esempio, ci sono delle missioni militari che creano delle anomalie nei satelliti, e in questo caso ci sono delle ragioni per non rendere pubblica la notizia. Questo spiegherebbe molto. Grazie Paola. Ciao a tutti, buon fine settimana. Un cucciolo di rinoceronte di 45 kg ha un futuro non leggero come quello dei ballerini classici, che sono però più performanti dei nuotatori, mentre un'autorevole rivista inglese ci segnala qualche dubbio sulla medicina indiana. È Barbara Gallavotti che adesso mette insieme tutto. Ascoltiamo. Un gruppo di tossicologi londinesi lancia un allarme dalle pagine della rivista scientifica International Journal of Environment and Health. Secondo gli esperti, i farmaci ayurvedici potrebbero avere effetti tossici e non essere in linea con le indicazioni di sicurezza dettate dalla legislazione europea. La medicina ayurvedica è molto diffusa in India, dove a lei sono dedicati oltre 12.000 centri di studio ospedali. Si basa su estratti di erbe e su sostanze di origine animale e minerale, e in particolare è considerato importante un buon bilanciamento di metalli, inclusi piombo, rame, oro, ferro, zinco, mercurio e stagno. Per questo, a volte, alle preparazioni vengono aggiunti metalli pesanti. Da qui la preoccupazione degli esperti, perché i metalli pesanti possono essere estremamente tossici per l'organismo umano. Per stare in forma è meglio il balletto del nuoto. Lo afferma un ricercatore dell'Università inglese di Hertfordshire. Dopo aver paragonato la forma fisica dei ballerini del Royal Ballet e della English National Ballet School con quella dei nuotatori della squadra inglese nazionale e internazionale, incluso il gruppo olimpico. Il ricercatore ha preso in considerazione fattori come resistenza, forza, equilibrio, flessibilità e stato psicologico. I risultati sono stati impietosi. I ballerini sono risultati superiori ai nuotatori per quel che riguarda 7 dei 10 parametri considerati più importanti. In particolare, i danzatori sono risultati avere una presa più forte del 25% rispetto ai nuotatori. Azzurro allo zoo di Budapest. Il 22 ottobre la rinoceronte Lulu ha partorito un cucciolo dal rispettabile peso di 45 kg alla nascita. L'eccitazione nasce dal fatto che il piccolo è il primo caso di rinocerontino bianco nato grazie alla fecondazione artificiale e facendo uso di seme congelato, conservato per 3 anni in azoto liquido. Il padre, Simba, abita in uno zoo inglese e ha 38 anni. Un'età rispettabile per un rinoceronte, che però si è rivelato più fertile di 2 concorrenti più giovani, con i quali i tentativi di inseminazione sono invece falliti. Naturalmente i ricercatori considerano questo successo un passo importante, perché fornisce un'arma in più per la conservazione delle specie minacciate. Allora, se avete la sensazione che in orbita state dimagrendo, ora sapete come verificarlo. Möbius finisce qui questa settimana. Buona serata a tutti.